Oggi, sabato 15, siamo in Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo per una manifestazione antifascista in solidarietà del popolo siriano e di tutti i popoli che lottano per la loro libertà. Abbiamo qua con noi Fuad Ruheha, giornalista di Amisnet, un compagno siriano che vive qua in Italia da molti anni e che è uno degli organizzatori della manifestazione di oggi. Innanzitutto, buongiorno Fuad. Sì, salve a tutti gli ascoltatori di Radio Default. E Fuad, innanzitutto oggi perché siamo qui proprio oggi, sabato 15? Allora, questa faccio sabato 15 perché è la giornata in cui movimenti nazifascisti da tutta Europa avevano deciso di radunarsi qui a Roma per una manifestazione in sostegno del loro degno compare Bashar al-Assad, che è per l'appunto l'illegittimo presidente della Siria, che porta avanti il regime che fu di suo padre, che è un regime tutt'altro che democratico e tutt'altro che legittimo, che è un regime che ha molto a che fare con il fascismo. Tant'è vero per l'appunto che i primi sostenitori che ha trovato qui in Europa sono i movimenti nazifascisti. Qui in Italia il loro principale sponsor è stata Casa Pound, che ha tenuto nei mesi scorsi varie conferenze per spiegare quello che è il loro punto di vista in sostegno del dittatore e che aveva appunto convocato questo raduno da tutta Europa, un raduno a cui partecipa tra l'altro anche la Gioventù Nazionalista Francese, che è quella stessa organizzazione che si è resa partecipe ed è quindi salita agli onori della cronaca recentemente per l'uccisione del giovane Clement. Di conseguenza, questa manifestazione è stata poi, dopo una prima autorizzazione a svolgersi a Piazza di Ponte Milvio, è stata invece proibita, gli è stato più che altro proibito l'uso del suolo pubblico. Di conseguenza si è tenuta, dovrebbe essersi tenuta proprio in contemporanea con la nostra, ma all'interno di una delle sedi di Casa Pound, dove stanno bene là, per dirla in romano, al chiuso fra di loro, mentre noi siamo felicemente qui in piazza alla luce del sole, come si confà a chi sostiene l'autodeterminazione dei popoli, perché in realtà è questa la parola chiave. Noi siamo qui in sostegno dell'autodeterminazione soprattutto del popolo siriano e di quello palestinese, che sono quelli citati nell'appello, ma comunque a sostegno dell'autodeterminazione di tutti i popoli in lotta, quindi volendo anche al fianco dei manifestanti che in questo momento animano le piazze della Turchia, ma anche della Grecia e del sud del Mediterraneo, perché se è vero che questa primavera araba ha forse deluso molti per l'ascesa dei movimenti islamici, che poi in realtà è un po' quello che è avvenuto anche in Italia con l'ascesa della Democrazia Cristiana dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma a parte quello, la più grande rivoluzione che abbiamo visto non è quella che è avvenuta nei palazzi del potere, non è l'ascesa al potere appunto di questi movimenti, quanto il fatto che oggi un egiziano, un tunisino, esprimono il loro dissenso verso il loro governo liberamente, pretendono che le istituzioni li rappresentino, pretendono di avere quei diritti di cittadinanza che forse noi troppo spesso diamo per scontati, anche se non abbiamo appieno qui in Italia, e che dovremmo ricordarci, che spesso ci ricordiamo solo il 25 aprile. Sì, vogliamo anche ricordare, tra l'altro, per aggiungere a ciò che dicevi te, che in questo momento è anche in corso un Pride europeo, un Pride, cioè la manifestazione per i diritti dei soggetti LGBT, e quindi rinfacciare ad altri popoli che per caso salgono al potere, componenti islamiste e via dicendo, quando stiamo nello stato dove c'è la città del Vaticano e dove non si è mai potuto nemmeno lontanamente parlare di diritti appunto di omosessuali, ma senza arrivare nemmeno a queste cose avanzate anche delle coppie di fatto, insomma è diciamo un non voler vedere un po' il marcio che c'è in casa propria. E insomma, tornando a bomba sulla questione siriana, noi abbiamo parlato, no, hai parlato te di autodeterminazione dei popoli. La Siria è un paese che, come tutto il Medio Oriente, che vede una grande frammentazione etnica, culturale, religiosa. Un compagno prima ricordava di 28 religioni diverse che sono presenti in Siria. E però c'è qualcuno qua in Italia che ci ricorda che il governo di Bashar al-Assad era un governo, tra virgolette, socialista, laico e che comunque ha garantito una pacifica convivenza di tutte le varie etnie e componenti nel suo paese, poco importa se sulla carta costituzionale fatta magari dai colonialisti francesi. mentre invece vengono raffigurati questi rivoluzionari come appunto dei tagliagole salafiti che vogliono soltanto creare un emirato sunnita in terra di Siria, anzi la terra al di là del fiume come la chiamano loro. Quanto è vero questo e quanto invece è presente un elemento pluriconfessionale all'interno della rivoluzione siriana? Allora parto da come hai ripartito te, dal ricordare la presenza a Roma oggi anche del Gay Pride, che è una manifestazione molto molto importante e che ha qualcosa in comune con la nostra di oggi, perché anche lì si tratta di autodeterminazione. Là si tratta dell'autodeterminazione di genere, dell'autodeterminazione della propria inclinazione sessuale, e si tratta di persone che non vogliono conformarsi a quello che è uno schema che venga dettato da fuori, che è più o meno quello che vogliamo fare anche noi in realtà. Certo, si tratta di un altro livello, di altri diritti, noi lottiamo per il diritto alla vita, loro lottano solo per una cosa molto importante come il riconoscimento della loro parità con gli altri cittadini. Per quanto concerne la confessionalizzazione della guerra che purtroppo ormai è in corso in Siria, c'è un problema da questo punto di vista, c'è un problema grosso, che fin dal primo momento il regime siriano, che è un regime sostanzialmente laico, questo non, assolutamente non voglio negarlo, il regime siriano ha cercato di giocare molto la carta del confessionalismo. Noi sappiamo che il presidente siriano, il tiranno siriano per dirla meglio, appartiene ad una delle minoranze, delle comunità minoritarie in Siria. Effettivamente ci sono 28 comunità, come dicevi, in Siria, 28 comunità differenti che si distinguono o per religione o per identità culturale, che vanno curdi, armeni e turkmeni, per parlare quando parliamo di identità culturale, musulmani sunniti, sciiti, alawiti, per parlare di identità religiosa, poi abbiamo cristiani cattolici di rito orientali, ortodossi, qualche copto, abbiamo i curdi, abbiamo tantissime componenti. Queste componenti hanno sempre vissuto in pace, non da 40 anni da quando c'è Assad. Di conseguenza il ruolo di pacificatore e di garante per le comunità minoritarie è assolutamente un ruolo di facciata, così come quando si parla del socialismo presunto di Assad. Nazionalsocialismo ricorda qualcosa all'Europa? Lo stesso Mussolini, per stare qui in Italia, da quale partito usciva prima di fondare il partito fascista? Insomma, basta guardare la storia propria per rendersi conto di quanto il socialismo possa essere sfruttato come paravento per qualunque cosa. Nel caso di Assad, il socialismo e il nazionalismo panarabo sono state la sua maschera. Tuttavia, chiunque abbia visitato la Siria sa bene che tutto il potere economico è in mano a un'elite, e questo non è socialismo, non servo io, non servono grandi analisti economici per rendersi conto di questo. Sì, tra l'altro aggiungo solo una richiesta, anche mi parli anche del diritto di sciopero in Siria sotto Assad, perché visto che si parla di socialismo... Diritto di sciopero è assolutamente inesistente, così come tutti i sindacati sono sindacati di Stato, l'iscrizione ai sindacati è obbligatoria e coattiva. Se vogliamo parlare di diritti dei lavoratori, oggi, grazie a questa guerra che è stata portata contro la popolazione che chiedeva la pace, abbiamo più di 3 milioni di disoccupati, questo escludendo anche i milioni di profughi. I milioni di profughi non sono all'interno di questo conto, abbiamo 3 milioni di disoccupati oggi in Siria, l'80% del PIL viene utilizzato per spese di guerra da parte del governo contro il proprio popolo. Di conseguenza questa è la gestione economica socialista di Assad. Tornando al problema fondamentale ed importante che ci davi te, il problema della confessionalizzazione anche all'interno della rivolta. Purtroppo anche coloro che si mascherano da amici della rivolta, quindi parliamo dei sauditi, parliamo del Qatar, parliamo anche della stessa Turchia, ma di altre forze esterne, tendono a puntare su questo elemento, a trasformare quello che è una lotta per la dignità, la libertà e uno Stato libero, democratico e pluralista in una lotta dei sunniti contro gli sciiti. Questa è una logica che va rifiutata. È vero che all'interno della Siria c'è Al-Qaeda? Sì, è vero. È vero che all'interno della Siria ci sono combattenti provenienti da ogni parte del mondo arabo ed islamico? Anche questo è vero. Numericamente non sono rilevanti rispetto al grosso delle forze rivoluzionarie, però è pur vero che mano a mano che va avanti, mano a mano che la disperazione avanza, ricevono sempre più consensi. Posso dire senza timore di smentita che oltre il 90% dei rivoluzionari si mettono a ridere di fronte all'ipotesi di un emirato islamico. Cioè, la popolazione siriana, nonostante sia molto più religiosa in quanto non sia mediamente la popolazione italiana, e questo vale per tutte le componenti, incluse quelle cristiane, non ha assolutamente il desiderio di costituire uno stato confessionale che è veramente al di fuori della storia della Siria, nel senso che non è mai stata una cosa che probabilmente gli italiani conoscono meglio la Palestina, così come i palestinesi sono sempre stati un popolo laico, anche i siriani lo sono sempre stati, non è una novità di oggi. Di conseguenza, quando sentiamo di episodi riprovevoli, drammatici che sono avvenuti, non vanno giustificati, non ho nessuna intenzione di giustificare l'uccisione di un ragazzino di 15 anni per una presunta bestemmia. Io ho visto anche le interviste con i genitori, ho sentito la viva voce dei genitori di questo ragazzo e ho sentito anche le vive voci dei manifestanti che il giorno dopo stavano manifestando sotto le sedi dell'esercito libero siriano dicendo: ma voi dove eravate? Dicendo: ma voi dove eravate? C'avete una sede ogni 2 metri, c'avete i posti di blocco nelle aree liberate di Aleppo ogni 3 metri e non siete riusciti a controllare questa cosa. Sì, i cittadini, che finalmente possono definirsi tali, chiedevano conto di quello che è successo, perché è stato ucciso un ragazzo di 15 anni con due colpi, d'arma da fuoco, dopo essere stato frustato, perché avrebbe affermato, sentite un po', non vendo caffè a credito neanche se dovesse arrivare Maometto in persona. Questa è stata considerata una bestemmia e per questo è stato ucciso. Queste cose vanno chiaramente denunciate, ma anche il popolo siriano le sta denunciando in prima persona, andando a manifestare sotto le sedi dell'esercito libero siriano, di coloro che loro considerano essere il loro liberatore. Di conseguenza, io quello che credo è che la Siria abbia gli anticorpi per cacciare via questa gente il giorno dopo la caduta di Assad. Dopodiché c'è anche da dire una cosa, che quando c'è gente che ti spara e gente che offre il petto al nemico per difenderti, anche se sotto una bandiera che non condividi, è chiaro che non la cacci via. È chiaro che non la cacci via. Forse se il popolo siriano avesse avuto un maggior sostegno, non parlo solo di armi, anzi non parlo proprio di armi, da parte del resto del mondo, della comunità internazionale, ma soprattutto dei popoli, delle società civili, io penso che questo non sarebbe potuto avvenire. Poi voglio anche ricordare una cosa, che tanti dei combattenti che magari vengono a lottare in Siria anche sotto la bandiera dell'Islam non sono poi così diversi dei combattenti che sono partiti dall'Italia a combattere il franchismo in Francia sotto la bandiera rossa. Non sono poi così differenti. Sì, diciamo, insomma, quando l'internazionalismo proletario da parte dei compagni viene meno, tu citavi appunto la Spagna, ovviamente ci sono anche altri che lo sostituiscono, e comunque, almeno secondo me, è anche giusto. Non vedo una partecipazione internazionale al sostegno della rivoluzione siriana come un elemento negativo della rivoluzione. Soprattutto anche perché non si configurano come eserciti regolari, ma si configurano come militanti. Dal punto di vista mio, alcuni dicono, non so quanti di questi militanti esteri siano jihadisti, non mi interessa dal punto di vista mio, anche se fossero tutti jihadisti, per quanto possa criticare il jihadismo, è comunque un elemento di solidarietà internazionale che non critico e che poi i popoli, una volta che li accettano loro al loro sostegno, non ci deve essere un atteggiamento ideologico neocoloniale da parte dei popoli occidentali, che quindi si smarcano da un sostegno. E tu citavi appunto le persone a petto nudo che pigliavano i colpi. Gilbert Ashkar, un noto intellettuale libanese, aveva ravvisato appunto in uno dei primi problemi della rivoluzione siriana, ma anche in quella libica, il fatto che i regimi al potere abbiano puntato tutto sull'elemento militare, di spostare appunto sul piano militare il livello della rivoluzione, che all'inizio chiedeva riforme ed era estremamente pacifico. Poi ovviamente con la repressione militare nessuno è un santo, ognuno tiene alla sua vita, appunto, perché hanno finito le guance da porgere dopo aver posto l'altra. Appunto, noi ricordiamo un anno fa una manifestazione ad Albano contro l'inceneritore che venne caricata dalla polizia, e non mi sembra che nessuno abbia offerto il petto e che nessuno poi abbia accusato quelli che non abbiano offerto il petto di essere rimasti a prendere le botte. Detto questo, appunto, Gilbert Ashkar faceva notare questa cosa. Lui, ad esempio, secondo me anche sbagliando sulla rivoluzione libica, auspicando un intervento militare straniero, che poi c'è stato, però poi si è anche corretto per quanto riguarda la questione siriana. Prima notavo che giravano dei documenti in arabo di un politico siriano che fa parte ovviamente dell'opposizione, Haitham Manna. Chi è questo signore e cosa dice? Allora, in realtà Haysam Manna è un personaggio un po' controverso, per essere sinceri. Lui fin dalla prima ora parlava di una soluzione politica alla crisi siriana, una soluzione che senza dubbio sarebbe stata più auspicabile. Tuttavia devo dire che purtroppo, cioè, purtroppo e per fortuna da un certo altro punto di vista, non gode di molto sostegno da parte della popolazione siriana, un sostegno che in realtà larga parte degli oppositori all'estero non possono vantare, e quando lo vantano in genere mentono. Haysam Manna in particolare però è uno dei meno apprezzati, perché è accusato spesso di collusione con il regime. Questo, a sostegno di questa ipotesi, c'è il fatto che riesca a entrare e uscire dal paese senza eccessive difficoltà, a differenza di tanti altri oppositori, e comunque si tratta di una persona che in realtà in Siria ha vissuto ben poco. Le sue idee riguardo al fatto che nel futuro della Siria ci debba essere una pacificazione, anche con l'attuale partito al potere Baas, sono idee assolutamente da tenere in considerazione in realtà, perché così come è avvenuto per l'Italia dopo il fascismo, una volta messi da parte quelli, le persone che hanno le mani sporche di sangue, bisogna considerare anche il fatto che ci sono tanti che in un modo o nell'altro o sono caduti nell'inganno del socialismo panarabo di Assad, o si sono trovati anche per ragioni meramente economiche nell'esigenza di dover far parte di quel regime. Queste persone, se hanno delle responsabilità, dovranno pagare, ma chiaramente devono far parte del futuro della Siria, non è possibile immaginare che non ci siano. Mi premeva sottolineare riguardo al discorso dell'intervento esterno che un intervento esterno in realtà è già in atto, un intervento esterno pesante, forte, un intervento esterno ben più organizzato di qualche miliziano sparpagliato. Si tratta dell'intervento di 15.000 guerriglieri Hezbollah sotto i diretti ordini dell'Iran, Iran stesso che ha spedito anche la sua guardia rivoluzionaria, dove la parola rivoluzionaria è veramente abusata in questo caso, e anche da parte di una milizia che in questo caso non è esattamente regolare, ma poco ci manca, che è quella dell'esercito del Mahdi iracheno, che è un altro esercito connotato religiosamente, perché è un esercito profondamente sciita, così come il movimento Hezbollah in Libano, che stanno agendo in forze, stanno agendo con armamento pesante, con armamento serio, non le micette che danno il Qatar e l'Arabia Saudita alla resistenza siriana. La resistenza siriana in questo momento ha poche armi, e se fosse vero la tesi dei complottisti che ricevono armi da parte di così tante armi, ricevono così tanti armamenti, dei rifornimenti così ingenti, non credo che assisteremmo a questa situazione sul campo, che purtroppo ci racconta di un Assad che in questo momento sta riguadagnando terreno, purtroppo. Quindi questo è un altro elemento fondamentale. Altro elemento fondamentale quando parliamo di solidarietà internazionale è la presenza di una nascente società civile siriana composta da tante persone che sono assolutamente immuni a qualunque settarismo, sono immuni perché queste persone lavorano tutte insieme, persone che lavorano con strumenti non violenti, persone che lavorano sull'informazione, sono nate decine di radio, decine di giornali che fanno informazione dal campo e lo fanno senza quello che gli inglesi chiamano hate speech, cioè senza predicare l'odio. Stiamo parlando di persone che già lavorano sul concetto di cittadinanza, sul concetto di democrazia, i famosi comitati di coordinamento locali, credo. I comitati di coordinamento locali lavorano molto più sul discorso della politica, qua parlo di società civile proprio, però sì, spesso sono anche espressioni di quei comitati. Quei comitati comunque rappresentano la voce più genuina dei siriani, quindi quando sentiamo anche gli stessi oppositori all'estero, ricordiamoci che in realtà non è così elementare che effettivamente possano essere considerati rappresentativi della rivoluzione siriana. Visto che mi hai bruciato la domanda sul risico globale, che pare che ispiri parecchie persone anche a sinistra in Italia, vorrei scendere un po' più sulle cose un po' più concrete. In pratica abbiamo detto prima che siamo d'accordo con te che il grande aiuto ai popoli lo danno i popoli. Cosa ti aspetti che il popolo italiano o i compagni italiani, perché ci stanno partiti italiani che non vorremmo che sostenessero la rivoluzione siriana, però insomma, quali noi italiani precari, studenti, che apporto possiamo dare alla causa siriana? E soprattutto, per farla breve, come da questa manifestazione di oggi, come continua, se continua un percorso di mobilitazione qua in Italia in sostegno? Allora, noi ci auguriamo che a partire da oggi riusciremo a costituire anche qui a Roma, come si è già costituito a Milano, un comitato che lavori costantemente sulla solidarietà con la rivoluzione siriana. Detto questo, all'interno di questo comitato, come può essere quello di Milano o come altre organizzazioni di questo genere, è possibile chiaramente dare un contributo fattivo anche a livello di attivismo. Non sto parlando di soldi, o almeno non solo, poi i soldi sono sempre benvenuti, chiaramente, insomma. Il popolo siriano ha bisogno di tante cose, a partire dall'aiuto umanitario, visto che in questo momento l'emergenza è anche quella di milioni di persone che sono ampiamente sotto la soglia di povertà, ma ampiamente. Quindi ci può essere la raccolta fondi, la raccolta di medicinali, se uno ha paura che quei fondi vengano usati per armi, la raccolta e cose di questa natura. Ma oltre a questo ci sono anche le pressioni che è possibile fare sulla politica nostrana, perché ci sia una presa di posizione netta, che in realtà in parte è stata anche già fatta, però ci sono anche delle cose un po' più concrete terra terra. Per esempio sappiamo che compagnie petrolifere italiane vendono petrolio attraverso delle triangolazioni al regime siriano. Questo deve finire, perché questo è il tipo di intervento esterno che non serve. L'intervento esterno che serve davvero è bloccare i rifornimenti di soldi, i rifornimenti di carburante e i rifornimenti di armi al regime siriano. Questo va fatto subito per consentire al popolo di avere una qualche chance di sconfiggere questo regime sanguinario. C'è bisogno tra l'altro anche del sostegno, sia pur simbolico, perché può sembrare poco, ma sapere che c'è qualcuno che ti sostiene, che c'è qualcuno che ha in mente la tua situazione, per i siriani è importante. Io di questo ho ricevuto tante testimonianze, io sinceramente non ci credevo tanto, ma in realtà il fatto di sapere che c'è stata una manifestazione in sostegno del popolo siriano il giorno tot, il fatto di sapere che gli italiani ci tengono, in realtà ha un senso, è importante, e quindi io mi auguro che sempre più persone vogliano fare quel poco che possono, perché io mi rendo conto che non tutti possiamo fare gli attivisti di professione, che non tutti possiamo mandare 42 scatole di medicinali contro la leishmaniosi, che è una medicina che in tanti conoscono qua in Italia perché è una malattia endemica fra i cani, mentre invece in Siria purtroppo è una malattia endemica fra i bambini a causa delle condizioni igienico-sanitarie e di sottoalimentazione in cui vivono i nostri bambini, purtroppo. E quindi ringraziamo Fuad. Se ci vuoi lasciare qualche contatto web per prendere informazioni magari sulla qualche sito, un qualche organo di informazione? Allora, il comitato organizzatore di questa manifestazione non ha un proprio sito web, né una pagina Facebook, perché è costituendo questo comitato che dovrebbe essere in solidarietà del popolo siriano in modo un po' più costante. Quello che posso fare è consigliare un sito che è particolarmente attento e particolarmente competente nel trattare le questioni siriane, cioè non è solo un sito che è dalla mia parte, per così dire, ma è proprio curato da una persona che sa di che cosa parla. Il sito è sirialibero.com, è curato dal giornalista italiano che è corrispondente dell'ANSA a Beirut, Lorenzo Trombetta. Lorenzo Trombetta è una persona che ha vissuto in Siria, una persona che parla arabo, che conosce gli attivisti siriani, è una persona che ha fatto la sua tesi di dottorato sulla struttura del potere di Assad. Non è un giornalista improvvisato, non è la Marinella Correggia che parla senza sapere esattamente di che cosa parla. Parla dopo aver verificato quello che dice. Quindi ringraziamo di nuovo Fuad, ricordiamo a tutti gli antiimperialisti da tastiera che il signor Napolitano ricevette grandi onorificenze da Assad figlio, e che se cercate su internet Assad Berlusconi ha fatto un'altrettanta visita qua a Roma, e che la cara Finmeccanica con la sua Selex vendette strumenti di comunicazione militari al regime, quindi augurandoci una campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro la Siria, e una campagna generale di boicottaggio contro il regime di Assad in sostegno dei rivoluzionari. Noi vi salutiamo, siamo Radio Default e buona libertà a tutte e a tutti.